segna casa del cibo, dice nell'intervista De Magistris, pagina 8, cronaca del Fatto Quotidiano, dicendo che in effetti, polemizzando anche con il governo, dicendo che con la regione, il governo dicendo che c'è stato un taglio di 334 posti di terapia intensiva e c'è stata una riduzione selvaggia di ospedale, pronto soccorso, medici e infermieri. Quindi diciamo c'è un po' ancora uno scontro tra governo e regioni per ripartire e con comunque una ripartenza che si preannuncia fai da te. Questo è la notizia riportata da tutti i giornali, diciamo, Sì, all'inizio. questo è lo stato dell'arte di un governo che da un lato vorrebbe centralizzare, ma che allo stesso tempo anche le riforme avvenute in questi anni danno spazio alle regioni per dire la propria e per muoversi un po' a loro modo. Lo stesso sul manifesto, in questo caso dall'Emilia Romagna, Bonaccini che dice che bisogna riavviare il motore economico del paese. Se il pressing, leggo testualmente, se il pressing delle regioni di Confindustria resta fortissimo, Palazzo Chigi preferisce sottolineare come sia stato raggiunto un accordo sul fatto che le linee guida devono essere nazionali, ma non si può abbassare la soglia dell'attenzione, anche se gli effetti positivi delle misure di contenimento ora si vedono. Dunque, dice Conte, non è prevista alcuna modifica alle misure che scadono il 3 maggio. Ma in realtà, come giustamente tu dicevi, in particolare le regioni del nord, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, spingono in direzione opposta. Ed anzi, leggiamo sempre dal manifesto, apprendiamo sempre dal manifesto, che anche in grosse aziende come in ad esempio in Fincantieri, a fronte di un accordo che fermava le produzioni, vi è in sostanza, diciamo, una ripartenza. Allo stesso tempo, Fincantieri, cito appunto di nuovo dal manifesto, 7.000 circa 800 dipendenti diretti, circa 26.000 ditte esterne, ha comunicato la decisione aziendale presa al di fuori di ogni condivisione sindacale di ripartire parzialmente nei cantieri e nelle sedi a partire dal 20 aprile con modalità progressive. Una posizione questa contestata anche dalla FIOM. E addirittura, sempre dal manifesto, leggiamo che addirittura le fabbriche di armi riprendono a lavorare. Infatti si parla di una nuova commessa che naturalmente stridono, che incredibilmente non si è mai fermato, in questo caso appunto l'industria di guerra. Ieri si è saputo di una commessa di 337 milioni per 15 nuovi elicotteri. Oltre alla produzione di F-35 si aggiunge la conferma dell'acquisto di 15 elicotteri da guerra, gli AV-169M. Marchiati Leonardo, una commessa al momento di 337 milioni, come dicevamo, che giustamente il segretario di fondazione Acerbo paragona a quella dei 400 milioni, poco al di sotto quindi dei 400 milioni che il governo ha stanziato per i comuni in piena emergenza sociale, quella appunto che a Napoli almeno si è tradotta nei buoni spesa. Quindi, come dire, mette le scelte economiche mettono sullo stesso peso le necessità alimentari, che in questo momento sono sicuramente e decisamente prioritarie, con quelle dell'industria da guerra, che certamente in questa fase, ma in generale, non servono a nulla. A te la parola. Sì, i due pezzi, le due misure si notano pure in un caso che è nato proprio qui a Napoli, riguardante i funerali del sindaco di Saviano. Che è successo a Nola? A Nola, cioè il sindaco di Saviano, diciamo, pace all'anima sua, è morto. C'è stato un funerale con una massa di gente, c'è una fotografia al centro di pagina 5 di Corriere del Mezzogiorno, con palloncini colorati che riprendevano il tricolore italiano, e si legge: la Procura di Nola ha aperto un'inchiesta su quello che è accaduto ieri a Saviano, dove centinaia di persone con tanto di palloncini si sono affollate attorno al carro funebre che accompagnava al cimitero il sindaco Carmine Sommese, medico, morto venerdì a causa del coronavirus. A precedere il carro, mentre un trombettiere intonava la marcia pure funebre, c'era la scorta, dico io, anche l'auto del comandante di stazione dei Carabinieri, della Polizia Municipale, e c'era anche il vice sindaco con tanto di fascia di tricolore, perché si dice due pesi e due misure, perché è vero che la procura non ha aperto un'inchiesta su questo, ma il funerale si è svolto in maniera molto tranquilla, con tutte le istituzioni al seguito. Ricordiamo qualche settimana fa il funerale di Salvatore Ricciardi a Roma, che lì non è stata aperta nessuna inchiesta, ma è stata direttamente caricate le persone che davano l'ultimo saluto a un loro compagno. Quindi voglio dire, anche questo ci ricorda come ci sono due pesi e due misure, ci sono, diciamo, la repressione tutta verso un lato, verso chi, diciamo, ancora, diciamo, lotta per un mondo migliore, per migliorare le condizioni delle persone. Uno di questi, che diciamo uno dei nostri compagni, che è morto, al suo funerale c'è stato un diverso atteggiamento. Certo, giusto, due pesi e due misure. Questa notizia viene riportata un po' da tutti i giornali locali, Repubblica, Corriere, che evidenziano appunto, insomma, come dire, l'esistenza di due pesi e due misure. Sì, si parla, come giustamente dicevi tu, di apertura di inchieste, ma restano lì, mentre invece ben altro trattamento hanno avuto i compagni romani, che hanno, tra l'altro, in poche decine partecipati giustamente al funerale del compagno Ricciardi. Bene, bene. E andiamo avanti con le altre notizie del giorno. Suscita curiosità, ma anche restituisce lo stato dell'arte della criticità della situazione, diciamo, all'approssimarsi della cosiddetta fase 2. Lo scontro che si profila all'orizzonte relativamente alla vicenda banche, alla vicenda liquidità. Sono diversi giornali a sottolineare un allarme sociale per lunedì a proposito, insomma, della riapertura delle banche e della possibilità che diversi, insomma, piccoli imprenditori possano addirittura assalirle per il fatto che appunto non sono stati ancora predisposti i criteri da parte delle banche per favorire la liquidità. Ricordiamo, diciamo, che si tratta di una liquidità, almeno per le piccole e medie imprese, fino a 25.000 euro, ma che è tutta relazionata al fatturato, e tuttavia non esistono ancora i moduli. Giusto? Sì, la notizia è ripresa chiaramente da Sole 24 Ore in prima pagina: banche, rischio, tensioni sociali. Addirittura c'è Patuelli dell'Associazione Bancaria Italiana, giusto, che dice: la notizia è ripresa da chiaramente da Sole 24 Ore in prima pagina: ritorno sociale. Addirittura c'è. E quindi Patuelli della dice: rischi, l'Italia rischia un cataclisma. E nel dettaglio andiamo a leggere che le organizzazioni sindacali del settore bancario lanciano un nuovo appello per porre al ministro degli interni affinché venga garantita la sicurezza presso le filiali bancarie. I prestiti per le piccole e medie imprese arrivano fino a 25.000 euro, e già una settimana fa il Viminale aveva mandato una circolare ai prefetti perché assicurasse, diciamo, la sicurezza degli impiegati di banca. La notizia viene ripresa dalla Stampa di oggi, pagina 4, l'emergenza economica, timori per la sicurezza degli sportelli, i sindacati lanciano l'allarme, ci aspettiamo reazioni violente in caso di rifiuti. Ricordiamo che il fondo per le piccole e medie imprese viene erogato dalle banche con la garanzia dello Stato e quindi si preannuncia una folla agli sportelli, con anche ipotesi di esplosioni di rabbia. Sì, del resto mi pare ci sia già successo al nord, in qualche filiale al nord, no? La giusta rabbia, dobbiamo dire, di chi appunto tira avanti con sacrifici la sua piccola impresa a cui viene promesso liquidità per far fronte alla crisi e che di fatto questa liquidità non la trova, un po' come i 600 euro per gli autonomi che fino ad ora sono arrivati solo a una parte di essi. Sì, c'è stato addirittura un caso a Varese, sono in crescita sia legittima. L'ultimo è a Varese, sono state anche squarciate le ruote dell'auto del bancario. E poi una coppia, marito e moglie, chiedevano uno scoperto di 5.000 euro. Troppo, dice l'intervistatore, non potevamo concedere quel prezzo, non c'erano le condizioni. Quindi allo sportello minacce, eccetera. Quindi diciamo c'è la rabbia anche di... delle piccole e medie imprese che in questo caso qui si vedono negata una promessa. I soldi dovevano arrivare il 17 aprile, promessa del governo, al momento non è arrivato ancora niente, proprio perché le banche non hanno avuto neanche il tempo materiale per procurare tutte le gli elementi burocratici, molto. Certo, per predisporre insomma il piano di richiesta. Del resto questo accompagnato dal fatto evidenziato sempre dal Sole 24 Ore di questa mattina che a rischio a fronte della crisi sono circa il 35% di piccole aziende italiane, che sappiamo anche costituire diciamo la spina dorsale, quindi il lavoro una componente importante del lavoro di questo paese. Bene, su queste note, anzi sulle prossime, ci lasciamo per dare spazio ad un po' di musica e ritrovarci in studio tra poco qui a Radio Quarantella con la seconda parte anche della puntata. Lo vogliamo ricordare che ospiterà Francesco, uno dei lavoratori, dei tanti lavoratori dello spettacolo che naturalmente stanno subendo come tanti altri la crisi appunto economica e sociale, non solo sanitaria, generata dal coronavirus. A dopo. A tra poco. Di nuovo qui in studio casa, forzati dalla quarantena. Ricordiamo che siamo su Radio Quarantella, voci, risonanze, dissonanze pandemiche. E andrà tutto bene se rassegna stampa e voci dal basso, di Resistenza e dalle reti di solidarietà, attiva a cura del Giardino Liberato di Napoli. Riprendiamo con la nostra rassegna stampa, a proposito del 25 aprile, che si avvicina. Ricordiamo una data, alla quale siamo tutti legati, appunto, ma che genera, diciamo, le solite polemiche, di chi non ha più nulla da dire. Mi riferisco naturalmente all'opposizione, che appunto ieri, per bocca di La Russa e di qualcun altro, propone un diverso, un loro 25 aprile di conciliazione. Flavio, a te la parola. Sì, sulla notizia c'è stata una sorta di la solita provocazione da parte della destra, dell'estrema destra parlamentare. Pagina 4 del manifesto, in basso a destra, La Sì. Russa propone di ricordare questa giornata in memoria dei caduti di tutte le guerre senza esclusione alcuna. Addirittura Fratelli d'Italia propone di cantare dai balconi la canzone Il Piave, diciamo, contrapponendosi alla proposta dell'ANPI, che aveva proposto di cantare dai balconi Bella Ciao. E La Russa, chiaramente, a tutti gli altri partiti, ha cominciato a dire che la Russia è offensiva innanzitutto con le famiglie delle vittime dell'epidemia. Il 25 aprile, dice Gianfranco Rotondi di Forza Italia, dice: il 25 aprile si festeggia la liberazione dal fascismo. Ogni variante sul tema è inaccettabile. Questo, diciamo, si chiama a questi livelli qua, che addirittura viene rivendicata anche da parte dell'est e da Frantoianni, che dice la Russia è offensiva innanzitutto con le famiglie delle vittime. E questo, diciamo, questa polemica sul 25 aprile, neanche la pandemia, neanche, diciamo, quello che sta succedendo, distrae l'estrema destra dal fare questo tipo di provocazioni che arrivano anche dal punto di vista internazionale su un altro piano. Sì, Quello che volevo ricordare, scusami se ti fermo un attimo, il 25 aprile, ovviamente noi continueremo a cantare con tanti altri Bella Ciao, e volevo ricordare in particolare le iniziative lanciate dai compagni romani, ma credo e spero riprese un po' in tutta Italia, appunto di festeggiare invece la Resistenza, violando lo stato d'emergenza per portare un fiore sulle tombe e sui monumenti dei partigiani, di chi ci ha liberato, di chi ci fa essere in questo paese cosiddetto democratico. Dal 25 aprile al 1 maggio, ricordiamo inoltre che c'è un appello alla mobilitazione, affinché appunto i senza voce, i movimenti dal basso, possano riprendere voce e darla a chi non ne ha. Vai avanti. Niente, sulle notizie internazionali spicca la situazione, spicca il caso degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una protesta generalizzata, spalleggiata anche dalla presidenza degli Stati Uniti contro il lockdown. Con lo slogan You can close America, molti cittadini di vari stati sono mobilitati contro il lockdown, scendendo in strada, dicendo che loro vogliono la libertà, vogliono essere liberi da Michigan ad Annapolis. Una protesta soprattutto spalleggiata dall'alt-right di estrema destra. Ricordiamo che negli Stati Uniti i contagi hanno raggiunto i 728.293 persone, e quindi Sì, mi sono. pare che sia il paese più contagiato e col maggior numero di morti, in cui il disastro della sanità privata, diciamo, restituisce appunto un'ecatombe. Esattamente, soltanto nella giornata di venerdì ci sono stati 3.856 decessi, diciamo. E in tutto questo assistiamo a questa protesta dove in Michigan, notizia anche di ieri, sono scesi addirittura con le armi per protestare contro, ripeto, queste sono proteste che dentro c'è di tutto, ci sono anche cittadini, diciamo, normali, ma è più che altro cavalcata dall'estrema destra, diciamo la cosiddetta alt-right, la parte più di destra che ha sostenuto Trump alle ultime elezioni. Questa, diciamo, è la curiosità che arriva dagli Stati Uniti d'America, il paese più colpito del mondo allo stato attuale. Ricordiamo che allo stato attuale ci sono 3,4 miliardi di persone confinate in casa, cioè la quarantena che noi viviamo in Italia e nel mondo riguarda poco meno della metà della popolazione mondiale. Sì, certo. Certo, ci piace ricordare invece un altro appello alla mobilitazione che viene dagli Stati Uniti, di tutti i movimenti dal basso, un appello che sta facendo il giro del mondo in questi giorni e che è stato ripreso e rilanciato anche in Italia, che pone invece naturalmente al centro la libertà, ma un'altra libertà, non quella formale, fatta di equità, fatta di giustizia sociale, di un reddito universale per tutti. E proprio su questo andiamo verso la chiusura della rassegna stampa di oggi, nella citazione sempre dal manifesto di un'intervista che ci sembra molto interessante al vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, il quale testualmente dice: per la crisi serve un salario universale, movimenti, interlocutori indispensabili. In questo il vescovo di Bologna segue la linea del Papa dei giorni scorsi, dettata attraverso appunto la lettera di cui abbiamo dato conto alle organizzazioni popolari, ai movimenti e alle organizzazioni popolari. Nella sostanza, testualmente, il vescovo di Bologna dice: esercitiamo una forma di politica dal basso, fuori dagli schemi, alternativa al dominio del denaro. Indicano i movimenti sociali la giusta direzione, per questo sono interlocutori indispensabili. Su queste note ci lasciamo con un breve stacco musicale per risentire a tra poco la voce di Francesco del coordinamento dei lavoratori dello spettacolo. Ci sembra un paradosso, tuttavia, che in questa fase, a fronte di tanti tentennamenti, ricordiamo, diciamo, che il famoso reddito di emergenza che doveva servire a dare appunto un po' di ossigeno, che era la mediazione trovata nel governo. To keep me turned on, but one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me, make me innocent and sweet. Bene, ritornati in studio casa, in attesa di trasferire presto le regie negli spazi. Riprendiamo da Andrea. Tutto bene? Sì. Siamo nella seconda parte della puntata e sentiremo Francesco, uno dei lavoratori, dei tanti lavoratori dello spettacolo, voci dal basso, voci fuori dal coro, voci non ufficiali, voci che resistono e si organizzano affinché non si ritorni nella stessa normalità di prima. Buongiorno Francesco, come va? Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a voi. Buongiorno. Bene, dicevamo appunto voci dal basso, per voi lavoratori dello spettacolo è stata l'occasione questa crisi per costruire questo coordinamento e vorrei partire proprio da questo comunicato nello specifico fatto mi pare ieri sul primo maggio romano, che è un evento abbastanza importante, italiano, che tutti conoscono, gestito e costruito dai sindacati ufficiali, diciamo un primo maggio ormai diventato una kermesse, ma che naturalmente si regge sui lavoratori dello spettacolo. A te la parola. Sì, Mario, allora approfitto per dire che noi da questa triste esperienza, grazie alla lungimiranza di alcuni compagni, siamo riusciti a formare un coordinamento campano che si confronta continuamente con vari coordinamenti regionali in una sede nazionale. Ieri abbiamo fatto un'assemblea campana dove è emerso, diciamo, questo stupore da parte nostra per il primo maggio organizzato dai confederali. Un primo maggio che a nostro avviso sembra veramente inadeguato e inopportuno, in un momento dove, diciamo, l'Italia è costretta al blocco totale, sembra che i contagi siano portati da chi porta il cane a spasso, da che fa footing, insomma. Sciacallando soprattutto il messaggio della sicurezza sul lavoro, gli stessi confederali che chinano il capo davanti a Confindustria, creando quello che ben sappiamo nelle regioni del nord. Certo. La settimana scorsa tutta una grossa platea di artisti, diciamo, nazionali di grosso calibro hanno letto un comunicato dicendo che lo spettacolo non può esistere senza tutte quelle maestranze che lo rendono tale, gli invisibili, e quindi chiedevano misure a sostegno per questi ultimi che non lavoreranno fino all'anno prossimo. L'organizzazione invece di questo primo maggio di musica ci sembra prettamente in contraddizione con quanto affermato nei giorni prima. Perché se la musica non si può fare, vuol dire che non va fatta in streaming dallo scantinato di Laura Pausini, ma non va fatta e basta. A questo proposito, volevo dire che noi con una serie di artisti napoletani, lavoratori dello spettacolo, si organizzerà sulla pagina dell'Assessorato alla Cultura di Napoli un primo maggio silenzioso, dove nessuno esprimerà la propria arte, ma ci saranno tutta una serie di interventi fatti da artisti, lavoratori, precari, che esporranno le proprie problematiche, insomma, perché ci sembrava giusto ricordare che quanto mai quest'anno non ci sia niente da festeggiare per la festa dei lavoratori. Certo, quindi un primo maggio di sciopero reale dei lavoratori dello spettacolo, ma chi sono i lavoratori dello spettacolo, Francesco, in questo momento, in questo paese? E che coperture, che misure di copertura, diciamo, hanno, insomma? Certo, allora Mario, vi dico subito, i lavoratori dello spettacolo, del comparto cultura in generale, parliamo di un indotto di circa 1,5 milioni di persone che copre niente di meno che il 16% del PIL, quasi un quinto, diciamo, del prodotto interno lordo nazionale prodotto dal comparto cultura. I lavoratori dello spettacolo purtroppo sono una vastità, parliamo di quasi 80 figure professionali che lavorano dietro alla realizzazione di uno spettacolo. Questa vastità non è mai stata, diciamo, ben definita, si aggira tra precariato, spinto, contratti a intermittenza e nessuna garanzia. Il lavoratore dello spettacolo non ha una malattia, il lavoratore dello spettacolo non ha ferie. diciamo, gli ammortizzatori, il tema ammortizzatori. Allora, il governo, a nostro avviso, ma credo anche a avviso di tanti, è riuscito a fare veramente un pasticcio, nel senso che ha cercato di piegare ammortizzatori preesistenti a tutta una serie di categorie a cui non erano accessibili prima e di fatto non lo sono neanche adesso. Praticamente i lavoratori intermittenti che sono sotto contratto non possono accedere a nessun ammortizzatore, né alle casse integrazioni né a quei famosi 600 euro. E parliamo di diverse migliaia di lavoratori che sono rimasti totalmente fuori da qualsiasi provvedimento. Quindi insomma anche il mondo dello spettacolo, dei lavoratori dello spettacolo, della cultura, ci sembra di capire, vivono di grandi forme di precarietà, precarietà esatto. Che poi da queste parti è anche lavoro nero, quindi tu ci... Assolutamente sì, ma grosse forme di precarietà proprio per come intesa l'intermittenza in Italia. L'intermittenza in Italia non è, diciamo, la possibilità di svolgere un lavoro senza vincoli di tempo e luogo. L'intermittenza in Italia è una schiavitù, nel senso che l'INPS o comunque la legge prevede che tu sei lavoratore solo nel momento in cui vai a lavorare. Quindi parliamo che la maggior parte di noi fa diverse giornate di lavoro in un mese e basta. Per tutto il resto non c'è niente, c'è un sussidio di disoccupazione a cui possiamo accedere, ma bisogna totalizzare un tot di giornate, non ci riescono ad accedere tutti, dura solo 6 mesi, insomma ci sono tutta una serie di problematiche rispetto a questo, da cui speriamo uscire più forti, perché grazie, tra virgolette, a questo virus si è riuscito a ricompattare un po' tutto il settore su tutto il livello nazionale, ma per un problema reale, pratico, qua si parla che la riapertura di questo comparto sarà primavera 2021. Quindi, diciamo, ci sembra essenziale come unica forma, diciamo, di ammortizzatore un reddito di quarantena che risolva l'emergenzialità. Cioè noi non c'è modo di arrivare a marzo 2021 per nessuno, diciamo, salvo la pace di qualche milionario. Detto questo, ci aspettiamo che il governo vari una misura per un reddito di quarantena che porti, diciamo, accompagni tutta questa serie di lavoratori fino a ripresa delle proprie singole attività. Posso fare una domanda a Francesco? Per quanto riguarda l'indennità, la normativa sull'indennità dei lavoratori dello spettacolo, secondo il decreto del 17 marzo, decreto 18, era prevista per il mese di marzo un'irrisoria indennità di 600 euro. Questi soldi che avete visti sono arrivati perlomeno oggi? Allora ti spiego, Fulvio, anche qua c'è grande confusione. Perché quella roba per i lavoratori dello spettacolo è fatta per chi non fosse sotto contratto. Il lavoratore dello spettacolo in Italia, per una grossissima fetta, è fatto tramite le COP. Le COP, che succede? Ti fanno dei contratti a 6 mesi a intermittenza. Quindi tu vieni assunto a gennaio, finisci a giugno, ma di fatto la tua posizione lavorativa si concretizza solo nel momento in cui tu vai a lavorare. Quindi che cosa è successo? Che tutti questi lavoratori, vi posso assicurare, parliamo di decine di migliaia, non avranno accesso ai 600 euro perché di fatto sono sotto contratto, anche se non sono in chiamate, non stanno andando a lavorare. Quindi è successo questo macello per cui qualcuno di noi è riuscito a prendere questi 600 euro come me, per esempio, ma la gran parte dei lavoratori in coppa li hanno chiesti, ma non si sa. Adesso le cooperative stanno facendo pressioni sull'INPS, perché giustamente non possono accedere alla cassa integrazione per una serie di conteggi che renderebbero, diciamo, impossibile quantificare, non possono accedere ai fondi di integrazione salariale nonostante tutti i lavoratori dello spettacolo paghino i fondi di integrazione salariale, non possono accedere a questi 600 euro perché sono sotto contratto anche se di fatto non lo sono. Ok, perfetto, chiarissimo, grazie. Va bene, Francesco, ti ringraziamo e un'ultimissima domanda. La fase 2, il ritorno, il cosiddetto ritorno alla normalità, lo scontro in questo momento sul paese è una normalità che sicuramente non vedrà, come dicevi, i lavoratori dello spettacolo, insomma, in prima linea, cioè ritornare al lavoro con un reddito, con un salario. Così come sarà per tanti altri. Come lo auspichi questo ritorno alla normalità? Cosa temi? ma su appunto soprattutto come lo auspichi. Allora Mario, su come lo auspico è veramente una domanda da un milione di dollari. Posso dire che finalmente in settimana prossima si farà un'assemblea, tutta una serie di piccole produzioni, piccoli teatri si vedranno per capire quale sarà il loro futuro, perché se il problema per i grossi enti teatrali lirici o stabili non si pone, nel senso che sono lavoratori a tutti gli effetti, adotteranno misure di cassa integrazione, per tutta una serie di piccole produzioni, piccoli teatri e lavoratori è veramente difficile immaginare un futuro in questo momento, perché il futuro potrebbe essere ripartire dalla modifica strutturale dei posti di aggregazione. Quindi, come potete immaginare, è un lavoro, diciamo, titanico rispetto a questa cosa. Non lo so Mario, noi ci stiamo riunendo in assemblea per parlare spesso del futuro, per adesso non ci immaginiamo, non ce lo immaginiamo, anche perché tutto quello che sappiamo fare fa parte del nostro specifico, prevede grossi momenti di aggregazione. Quindi è una bella domanda a cui per adesso stiamo cercando di darci delle risposte, l'unica che abbiamo trovato è traghettare con un reddito universale tutti questi lavoratori fino a inizio riprese. E questa cosa, tra l'altro, se è possibile approfondirla, io siamo tutti convinti che andrebbe fatta con una patrimoniale, ma non chiedendo soldi in giro. Diciamo, il capitale ha accumulato abbastanza plus valore per restituirlo agli operai che gliel'hanno fatto occupare. Questo forse è il momento giusto per andare in quella direzione. Su questo siamo assolutamente d'accordo e andiamo verso la fine della trasmissione. Andrà tutto bene se i lavoratori si organizzano, se dal basso movimenti, reti sociali riescono a dire la propria per un ritorno che non sia la normalità di prima, ma che sia fondamentalmente cambiamento, un ritorno ad una situazione nella quale il diritto ad un'esistenza dignitosa venga garantito a tutti, così come quello alla sanità, ai servizi, e che lo si faccia, giustamente come tu dicevi, attraverso una distribuzione della ricchezza nuova che toglie a chi ha per dare a chi in questi anni non ha avuto e rischia di trovarsi seppellito appunto da questa crisi economica e sociale oltre che sanitaria. Su queste note ci lasciamo per risentirci la prossima settimana. Da Radio Quarantella a Radio Virus, esperimento di palinsesto nazionale, vi diamo il buongiorno e vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Andrà tutto bene se realmente andrà bene per tutti e tutte. Saluto Francesco, che è stato impeccabile e chiarissimo. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi, grazie. Grazie Francesco, buona giornata e a presto, buona resistenza a tutti, prepariamo l'offensiva. Buona giornata a tutti, ciao ciao. Io non sto fra gli inni e le bandiere, fra le pecore in processione, che la faccia come il sedere, ed in tasca ma soluzione, con chi ci predica la morale, e chi decide cose normale, normale. Agliamo le buone di professione, e chi dice resta al tuo posto, che la mia unica vocazione, essere solo un cane sciolto, scelgo da me dove voglio stare, e tu continua pure a sbagliare. Le vostre regole truccate, le verità già masticate, mi dai una favola, sì, ma voi cambio l'anima, e non bussare alla mia porta perché non mi farò trovare, ora e sempre, niente potrà farmi più male, finalmente.